It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non accenna a rallentare, Kappa e Drago sono ritornati adolescenti. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Bella lì, ci sto dentro. Ci stai dentro? Sì. Io no. Come no? È brutto essere adolescente. Lo so, ma almeno non rischiamo più di diventare dei polli. Sì, vabbè, ma cosa succede? Che noi siamo adolescenti e per dire i nostri amici invece hanno 40 anni? Così non mi piace. Ciumbia, è vero. Vabbè, dai, non pensiamoci e andiamo a fare un giro in skate. Poi possiamo imbrattare i muri con lo spray e finire la giornata a tirare i sassi da un cavalcavia. Figo, andiamo! Ronjörg Minnesten, si dissociate questo tipo di umorismo infantile su skateboard, graffiti e intifada da cavalcavia. Questo tipo di contenuti è estraneo alla linea ideologica e editoriale di Ronjörg Minnesten. La fabbrica di polli. Non mi ricordavo neanche più che domani è il primo giorno di lavoro e ho già un consiglio di amministrazione. Dobbiamo deliberare delle cose importanti. Innanzitutto bisogna cambiare le gomme davanti della mia macchina. E lì ci vorranno 2 o 3 ore per decidere. Poi, dai pennoni, non si capisce come mai, piove del guano. Ho sentito dire che ci sono dei piccioni. Però, non so, questo devo verificare. Insomma, un sacco di grane. Con questo spirito che mi ritrovo, un ghiut che non so dov'è, io devo andare in fabbrica e fare un consiglio di amministrazione. E tutti subiranno il mio umore. Oppure possiamo stare tutti sotto il tavolo, piegati, con i gomiti di fianco alle guance, testa fra le mani, le ginocchia vicino al mento, in totale assoluto silenzio. Facciamo dell'autistic manager. Lo sai che il voto è una delega da dare a un tuo simile, e in quanto simile lui non ti fregherà, perché il suo bene è uguale al tuo. Ma il pollo è povero e vota quello ricco, guardando il piatto dicendo un micifico. Il pollo è debole e vota il leone, che se lo mangia in un solo boccone. E mentre muore ripete non è male, lui mi ha promesso in dono il funerale. E non è vero che è andato tutto storto, se posso avere lo sconto anche da morto. Ma restano ancora molti misteri da risolvere qui, nella plumbea atmosfera della fabbrica di polli. Uno di questi misteri si trova nei sotterranei della fabbrica, laddove nessun piede umano ha più osato penetrare da secoli. È il misterioso mistero de... La gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Fatemi uscire! Si calmi, signor Faraday! Fatemi uscire! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! La fabbrica di polli! Bim, boom, bam. Pari, ho vinto. Come sei e pari? E quindi? Quindi devi andare tu dal tacchino gigante. Ma io ho paura. Ma dai, sei grande e grosso, che paura devi avere? Allora scusa, facci tu, no? Che invece hai voluto fare bim, boom, bam e per vincere hai barato. Ma non è vero, come si fa a barare a bim, boom, bam? Non esiste. Hai tolto un ditino all'ultimo. Ma cosa dici? Ci vorrebbe la moviola in campo. Dai, non trovare scuse, vai a chiedere il pallone al tacchino gigante. Ma l'hai tirato tu nel suo recinto. Basta adesso. Hai perso a bim, boom, bam e ci devi andare tu. Ni. Sì. Ni. Sì. Ni. Sì. Kappa, ma cosa stiamo facendo? Stiamo discutendo. No, Kappa. Ma come no? Stiamo perdendo tempo. Cerchiamo Dixie e chiediamole di farci tornare come prima. Ma le abbiamo ceduto tutti i nostri beni davanti a un notaio, Drago. Abbiamo pagato un prezzo altissimo per depollizzarci. Come ti viene in mente di far tornare tutto come prima? Non riesco a sopportare lo spleen adolescenziale. Non è sostenibile. Ciumbia, hai ragione, Drago. E senza tipe, per giunta. Le tipe. Chi se le ricorda le tipe? Qui solo galline. Beh, però... Cosa? Le galline episcopali? Ci sto abbastanza dentro. Sono una gallina vanitosa e demote. Del pollaio io sono la stella, la più bella. Faccio nuovo e son da te, mio bel gallo impaziente e selvaggio, mi fai fare cocodè, mi fai fare cocodè. La fabbrica di polli. Poi Tarek, qui le cose si stanno complicando, Kappa e Drago sono ridiventati uomini a tutti gli effetti, anche se comunque sono ringiovaniti. E quindi il nostro piano è andato a farsi benedire, Però non dobbiamo disperarci, perché non possono resistere troppo a lungo nei panni di ragazzini, Sì, perché l'esplosione nucleare degli ormoni giovanili non è mica sopportabile da un adulto, E loro sono adulti, Dentro sono ancora adulti. Beh, adulti. Insomma, non esageriamo, va? Dai, Drago, allora, siamo uno contro uno. La porta è quella, io sono Michel Platini, anzi, Marco Van Basten. Vabbè, io sono Kalle Rummenigge. No, tu sei Juari. No, Juari no. Sì, sì, tu sei Juari. Ma perché? Juari era di colore, era alto 1,65. Era scarso. Le nozioni di primo di classe. Jorge dos Santos Filho, detto Juari, calciatore, nato a Rio de Janeiro il 16 giugno 1959. Attaccante guizzante e imprevedibile. Ha giocato nella stagione 82-83 nell'Internazionale di Milano, Milan, disputando 36 partite e segnando solo 4 gol. È rimasto nella storia di Inter come uno dei peggiori attaccanti di tutti i tempi, non certo come eroe di calcio svizzero Stefan Chapuisat, che però, ahimè, non ha mai giocato in campionato italiano per manifesta miopia dei padroni di calcio mercato nazionale. No, vabbè, facciamo bim bum bam. Se esce dispari sono Rummenigge, se esce pari Juari. Ok, dai, ci sta. Allora. Bim bum bam. 4 pari, 6 Juari. Hai tolto un dito, non vale. Ma che tolto? Semmai te l'ho messo. Ni. Sì. Ni. Sì, sì. Ni. Sì che te l'ho messo. Ni. Che cosa succederà adesso? Drago sarà davvero Juari? E se sì, perché? E soprattutto che cosa diavolo sta succedendo? Lo saprete solo domani a mezzanotte su Radio 3 con il terz'ultimo fantacalcistico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Tanto qualcosa. Aia. Oh. Eh no, Polly,